perfetto mondo. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. Eccoci qua, ancora una volta iniziamo con le parole di Trump, Super Trump, un gruppo musicale, sì. Giulia Crivelli, ciao, che però potrebbe diventare anche il titolo di una nostra rubrica fissa, e in effetti sta regalando Trump. Temo che sarà il prossimo spunto per l'imitatore, quel John Di Domenico che abbiamo sentito qualche settimana fa, perché io francamente a questo livello di straniamento delle conferenze stampa della giornata di Trump non eravamo mai arrivati. Rivolgendosi a tutti gli esperti della task force, lui appunto ha detto: ma mi sembra di aver capito che i raggi ultravioletti o qualche altro tipo di super light, quindi di luce, super luce, non so che cosa intenda, i raggi verdi, non lo so, guardate veramente, io sono, cioè questo è il presidente del paese più importante del mondo, e subito dopo ha detto anche che perché non provare a iniettarsi del disinfettante. A questo naturalmente, perché come sapete queste conferenze stampa sono di fatto susseguirsi di esternazioni di Donald Trump, e alle domande a lui non piace rispondere. Quindi poi naturalmente ne parlano tutti i giornali, e perché poi c'è stato molto dibattito, e il super esperto dell'FDA, che è quell'ente, la Federal Drug Administration, che deve autorizzare la messa in commercio di qualsiasi tipo di test, di tampone, di medicina, ha dovuto poi andare in televisione dicendo: ma no, certo, erano domande da persona comune alle quali qualunque medico risponderebbe: ma non ci provate nemmeno a ingerire del disinfettante. Tant'è però che, insomma, questa è stata la conferenza stampa di ieri. Il Washington Post riprende quel tema di cui avevamo già parlato, cioè l'opportunità di non trasmettere a reti unificate queste esternazioni di Donald Trump, perché per strano che possa sembrare, magari a chi ha un minimo di cultura scientifica, ci potrebbe anche essere qualcuno che queste soluzioni, venendo dalla bocca del presidente Trump, le prova per davvero, e naturalmente sono improponibili. È chiaro che questi aspetti ci sono. Io credo anche che poi Trump usi questo linguaggio perché sa di avere dietro un paese, il paese comunque dell'incontro tra la scienza e le tecnologie, un paese che ha una grande tradizione, una potenza industriale, arriveranno sul vaccino, quindi secondo me lui usa anche questi riferimenti per dare una sensazione di ogni potenza, no? di capacità di contrasto all'epidemia. Certo che alcune dichiarazioni sembrano estemporanee. In ogni caso, Giulia. Poi naturalmente ci sono le notizie economiche, perché dopo l'approvazione lampo fatta dal Senato, è stata approvata anche dalla House of Representatives, la Camera Bassa degli Stati Uniti, quella controllata dai democratici, è stato approvato questo ulteriore stimolo da quasi 450 miliardi di dollari, e però ancora oggi, come dicevamo del resto ieri, ci sono le notizie di chi non riesce a accedere a questi fondi. Ma interessante anche l'edizione invece europea del New York Times, che ha in prima pagina una foto scattata a Napoli, e il titolo è: gli italiani devono combattere questa guerra su due fronti, uno è quello sanitario, e poi però spiega come le regioni del nord, abbiamo sentito adesso del Veneto, siano molto più colpite dal punto di vista sanitario, ma anche se quelle del sud sono meno colpite, naturalmente essendo più deboli strutturalmente dal punto di vista economico, soffriranno molto di più l'uscita, dalle conseguenze che avremo quando usciremo da questo tunnel. E ci renderemo conto dei danni economici che ci attendono, purtroppo. Ancora Stati Uniti, o vuoi venire in Europa a parlare, non so, di tutto il dibattito, Consiglio europeo, Germania, Merkel, eccetera? Sì, devo dire che in molti l'hanno già ipotizzato, insomma, che questo comportamento che ha tenuto Angela Merkel così fermo, così deciso, ma anche compassionevole, le aprirebbe la strada. Tra l'altro sappiamo che la leader designata della CDU, quella Kramp-Karrenbauer, ha dato le dimissioni un paio di mesi fa, quindi secondo molti è talmente alto il suo gradimento in questo momento che potrebbe effettivamente avere la possibilità di fare un quinto mandato come cancelliere. Io credo che lei non voglia, però vedremo. Detto questo, tutti i giornali tedeschi oggi citano, insomma, la mettono in prima pagina e citano questo suo intervento, anche abbastanza breve, fatto subito dopo la fine del teleconsiglio di ieri. Se volete, sentiamo un brevissimo estratto delle sue parole con il suo tono calmo e, ripeto, molto rassicurante, che in questo momento credo faccia bene a tutti. Sentiamo. Denn wir wollen, dass alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sich wirtschaftlich wieder erholen können. Ein solches Konjunkturprogramm. È scattato l'applauso, perché lei ha proprio detto, una delle prime cose che ha detto è che sia chiaro, noi vogliamo che tutte le economie di tutti i paesi dell'Unione Europea si riprendano, e se questo, poi ha spiegato, vorrà dire che noi dovremo rivedere il nostro budget, che dovremo rivedere i giudizi frettolosi che abbiamo dato su altri paesi, e succederà, almeno, insomma, come dire, almeno finché sarò cancelliere io. E quindi, insomma, è una cosa che credo sia un buon segnale per tutti, anche se sappiamo che quello di ieri è stato solo un primo passo, però, insomma, secondo me poteva andare molto peggio, tanto che anche Financial Times parla proprio di questo, dell'esito di questo vertice, mette una foto di Angela Merkel con una delle sue essenziali e semplicissime giacche, quella di ieri era una specie di viola, e dice Angela Merkel ha lanciato l'ennesimo avvertimento di non suscitare disuguaglianze, di non suscitare divisioni, perché l'Unione Europea ha un futuro anche economico solo se cerca di andare a un'unica velocità. Oggi è venerdì, copertina dell'Economist. Ah, copertina dell'Economist è bellissima, c'è una specie di personaggio che potrebbe assomigliare in qualche modo a un militare, però ha degli occhiali tipo Ray-Ban, quelli di Tom Cruise, quindi fa il segno come lo zio Sam, your country needs me, cioè il tuo paese ha bisogno di me. Sul berretto ha un coronavirus, e il tema è di nuovo di come questa pandemia sta cambiando gli equilibri geopolitici. Al di là di quello che sta succedendo in Nord Corea, secondo Trump non è vero che Kim Jong-un sta male, quindi non è tanto quello, un acuirsi di nuovo delle tensioni, diciamo, legate allo sviluppo delle armi atomiche, ma è proprio che la Cina, dopo un momento in cui sembrava vincere, anche perché voleva essere solidale con tutti i paesi che erano entrati nella crisi quando lei sembrava uscirne, in realtà adesso, con tutte queste richieste di spiegazioni legittime che stanno avanzando oltre al presidente Trump i paesi europei, forse non è così sicuro come che tipo di equilibri geopolitici ci saranno nel mondo una volta che questa pandemia sarà alle spalle, che poi sappiamo che non è un interruttore, ma sappiamo che sarà una strada molto lunga, tanto che un altro approfondimento dell'Economist di questa settimana si intitola After the Disease, the Debt, cioè dopo la malattia arrivano i debiti, perché sappiamo la Germania stessa ha rotto questo tabù di indebitarsi molto più di quanto abbia fatto negli ultimi anni, quando è uscita dalle rovine della ricostruzione del dopoguerra. Di male in peggio. Giulia, abbiamo ancora un minuto per chiudere, che altro ci vuoi segnalare? Sì, dicevi, scusami? No, che altro ci vuoi segnalare in quest'ultimo minuto? Scusami, ti avevo perso per un attimo. No, in Francia prosegue invece, se vuoi una curiosità, dai, visto che è venerdì, sì, concediamocela, sempre sulla prima pagina del Financial Times, vi assicuro, la prima pagina, articolo di taglio sotto quelli appunto che delineano i risultati del Consiglio Europeo, c'è una ricerca di Unilever, che è questo colosso della GDO, dei prodotti di largo consumo, che ha fatto una ricerca da cui si evince, questo vale per il Regno Unito secondo me. Sto già ridendo perché so dove vai a parare, sì. Che gli home workers, cioè le persone che lavorano da casa, non lavorano in modo necessariamente smart, cioè intelligente, perché stanno calando i consumi di deodoranti, in generale di saponi, sì, e anche di prodotti per radersi. Quindi cioè ci stiamo imbarbarendo in pratica. Esatto. E questa un po', insomma, era la notizia leggera. Poi devo dire, in Francia invece c'è molta serietà su questo 11 maggio che si sta avvicinando, che è il giorno fine del lockdown, e Macron, che è in calo nei sondaggi, tra l'altro al contrario della Merkel, ha cercato di chiarire meglio, perché pare veramente che le persone, soprattutto quelle che devono mandare i figli a scuola, che sono preoccupate. È diventata una cosa non obbligatoria, sono preoccupate. Grazie Giulia, ci risentiamo la settimana prossima. Con te è tutto per la puntata di oggi. Peter Bescapè, regia, Jacopo De Franchi in assistenza, Alessandro Schirano in redazione. Ciao da Alessio Maurizi.